Bella raga, sono Pietro, anche di Solo Vinile Libri, e io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Connolly of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e 13 minuti primi, torniamo in diretta qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale ed in diretta streaming sul restante globo terracqueo attraverso il sito della radio raggiungibile al www.ondarossa.info e quindi andando a cliccare su Ascolta. Quindi benvenute e benvenuti all'appuntamento del giovedì sera con Do It Yourself Invasion. Andiamo a buttare l'occhio da queste parti su tutto quello che gira intorno all'autoproduzione musicale, non solo. Radio Onda Rossa, radio libera nell'etere, senza padrini, senza padroni, senza pubblicità, e che va avanti dal 1977 in autogestione, totalmente autofinanziata, e che può trasmettere unicamente grazie al libero contributo di redattori e redattrici. Ma l'importante sostegno che date voi che ascoltate la radio, quindi sostenendo direttamente, e potete farlo attraverso il sito della radio, quindi www.ondarossa.info, andando a cliccare su Sostieni sarete indirizzati ad una pagina con, dove troverete tutte le coordinate per poter sottoscrivere. Nonché attraverso lo storico conto corrente postale, il 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma San Lorenzo. mail di redazione ondarossa@ondarossa.info, nonché l'email della trasmissione fantasma@ondarossa.info. Email aperta ed attiva in questo momento, quindi proponeteci le vostre autoproduzioni attraverso questo indirizzo. Nonché segnalazioni di iniziative e quant'altro. Non per ultimo il numero di telefono 06 49 17 50. E in questa puntata andremo a presentare un progetto una sorta di chiamata alle armi. Per tutte e tutti quelli che scrivono ma che non hanno il coraggio di far conoscere i propri scritti. Quindi apriremo uno spazio in questa trasmissione. Lo andremo a presentare tra pochissimo. Intanto ci sentiamo i Dystopian Society da Firenze. Ed andiamo a presentare l'ospite telefonico di questa sera. Buonasera Valeria, ci senti? Sì, io ti sento. Ecco, no, insomma, se mi ricordo di alzare i cursori giusti, insomma, ti sentiamo anche noi. Benvenuta. Grazie. Allora, iniziamo con le dovute presentazioni. Allora, Valeria, tra le altre cose, voce dei Kalashnikov. Sì. attualmente, tra le altre cose, tra le altre cose. certo. Poi le andremo a descrivere un po' tutte le altre cose. E no, vogliamo innanzitutto raccontare come mai sei in collegamento con Radio Onda Rossa. Beh, assolutamente perché hai insistito tantissimo tu e mi hai inseguito per mesi. No, non è per questa la ragione. No, scherzi a parte. È un processo... No, che è vero, però. Che è vero, ma cioè, poi così sembra che sei persecutorio tu, ma in verità sei molto determinato e io sono un caso umano maledetto. Detto ciò, mi è sempre piaciuta l'idea di portare la letteratura in una fase, in una sorta di evoluzione performativa, per il semplice fatto che rimane ancora un atto molto intimo, individuale, sia la scrittura che la lettura, e visto che tra le altre cose canto nei Kalashnikov e conosco Bazzico, la scena do it yourself legata alla musica, al punk e a tante altre cose, dicevo, com'è possibile? Perché cavolo io sono qui, scrivo da sola nel mio computer, lascio le cose a marcire per anni, aspettando la legittimazione che mi arrivi dall'editoria, dalla pubblicazione, da un essere altro che dice ok, va bene, il tuo libro è bello e possiamo pubblicarlo. C'è un po' ancora questa dittatura del supporto, del cartaceo, della legittimazione, dell'approvazione. Quindi ho detto, questa trasmissione si chiama Do It Yourself Invasion, proviamo ad invadere il mondo e la scena Do It Yourself con la letteratura. Ecco, questo è più o meno quanto, oltre al fatto che tu hai dimostrato una pazienza infinita nel portare a realizzare questa cosa insieme ovviamente al collettivo Kalashnikov, certo, che poi ha musicato e tutto quanto, e le letture che andremo a sentire. È una pazienza naturale, essendo fantasma, quindi non è che c'ho sì, impellenze importanti. Non c'è come si dice, il sangue che freme, cioè, esatto, evanescenza. No, insomma, dai. Perfetto. No, mi volevo ricollegare a quello che tu hai detto, no? Perché se c'è più immediatezza nell'ambiente del do it yourself musicale, quindi si trova un batterista, si trova un chitarrista, qualcuno che vuole urlare al microfono, il gioco è bello e fatto, si inizia a suonare e c'è questa immediatezza. Esatto, sì, questa spontaneità, questa irruenza data da io posso scrivere una canzone il martedì alle prove e il sabato farla a un concerto. È una piccola magia, secondo me, no? Sì, no. Volevo chiederti, insomma, come tu hai iniziato a conoscere il collettivo? Allora, l'ho conosciuto per caso, nel senso che ovviamente Facebook, ovviamente social network, tanta gente del mio giro, delle persone che conoscevano, soprattutto il Telos. Quanta malinconia mi prende quando penso al Telos, che comunque esiste tuttora in forma diversa, continuano a postare le canzoni di questi Kalashnikov, quindi ho cominciato ad ascoltarli e mi è successa una cosa che non mi succedeva da quando ero tipo adolescente, teenager, che ho detto cavoli, questo è il mio gruppo preferito, e non ho ascoltato altro per tipo un anno. Ti capiamo. Sì, no, ma nient'altro, proprio nient'altro, ho ascoltato solo i Kalashnikov per un anno. E quindi poi vabbè, conoscenze, Telos, sempre, amici di amici. Come è iniziata? È iniziata fondamentalmente perché io avevo la fanzine, che si chiamava, cioè posso fare un numero domani come poi non posso farne più, Nihilismi. E quindi contattai Stiopa, Stefano, per chiedergli di dare un contributo, se potevo pubblicare determinate cose, perché allora avevano pubblicato un fumetto rielaborato in Vampirizzati Oggi, e quindi io volevo prenderlo, pubblicarlo sulla mia fanzine, e quindi da lì è nata la collaborazione fondamentalmente, che si concretizza in una lettura che credo tra qualche giovedì, 3-4 giovedì, leggeremo tra un po'. E questa collaborazione è cresciuta, tant'è che mi chiesero di provare a scrivere un testo. E la cosa buffa è che nella descrizione di ciò che dovevo andare a scrivere c'era qualcosa del tipo canzone sui motociclisti anarchici ribelli, con un'ambientazione che, come si dice, passa dai Manowar ai Beach Boys, una roba del genere. E quindi io, non sapendo niente di moto, poco di Manowar e ancora meno di Beach Boys, però mi sono buttata in questa cosa. Ho scritto una specie di raccontino che poi è diventata Cavalieri della Tempesta Elettromagnetica, l'ultimo album, Lancio Tremorente del Cielo. Quindi poi niente, alla fine collaborazione, amicizia, tutto quanto, e mi hanno chiesto di provare a cantare, cosa che non avevo mai fatto prima, e neanche sotto la doccia, c'era proprio una col trauma del cantare. E infatti di recente ho ritrovato le primissime prove che ho fatto con loro. Probabilmente dovremmo fare un disco solo per quelle prime prove, per curare la depressione delle persone, perché è molto divertente. Vabbè, e niente, quindi questo quasi 3 anni fa, questo è quanto. No, che poi, insomma, ascoltando i Kalashnikov, leggendo i testi dei Kalashnikov, cioè, sono testi abbastanza complessi che... Sì. Non dirlo a me che me li devo ricordare. No, dico anche a livello interpretativo, no? Cioè, invitano a una lettura, cioè, abbastanza impegnata, e che stimola magari dei livelli di lettura più complessi, no? Sì, sono storie, non sono slogan, che è un immaginario. Ogni canzone dei Kalashnikov è veramente come immaginarsi di vedere una scena di un film, immaginarsi tutto quello che c'è stato prima, quello che potrebbe esserci dopo. È una sorta di mondo che si crea, sono storie che hanno a che fare spesso con soldati e con il cemento. Guarda, no, visto che abbiamo citato prima Cavalieri nella Tempesta Elettromagnetica, magari lo mandiamo. Ma sì, okay. Perché no? Perché no? Allora, torniamo tra poco con le chiacchiere con Valeria, Kalashnikov Collective, Cavalieri nella Tempesta Elettromagnetica. Ciao! con il vino di Saturno il motore. Ed eccoci qua. No, sbaglio sempre il cursore. Sì, no, niente, no. Che dire, è sempre un piacere ricordare che Radio Onda Rossa è stata una tra i coproduttori dell'ultimo lavoro dei Kalashnikov. E no, vabbè, c'ho questa immagine in mente ogni volta che sento questo pezzo. Mi viene in mente la corsa delle moto di Akira. Beh, soprattutto nei primi album i riferimenti sono comunque, e anche negli ultimi, tutto quello che è lo scenario post-apocalittico, comunque immaginarsi una società stravolta da quelle che sono le convenzioni e le norme a cui siamo abituati, insomma immaginarsi, io per esempio sono un'appassionata dei film di zombie, che cosa dovesse succedere se qualcosa viene stravolto completamente, insomma, e spesso nelle canzoni dei K si racconta queste cose. E infatti dal di là di tante cose credo che la collaborazione sia, il legame sia nato anche e soprattutto per una condivisione di scenari. In tante cose che ho scritto comunque ritorna l'idea della società travolta, sconvolta, in cui ciò che è normale non lo è più e quindi bisogna ridefinirsi, la famosa teoria del caos, no? Rompiamo un vaso, vediamo dove vanno i cocci, forse quella è la vera natura, no? Come si dispongono naturalmente. E quindi sì, ci siamo trovati forse da questo punto di vista, anche per questo, anche per una visione. No, ma stavo pensando, cioè non bisogna tanto, cioè se dobbiamo parlare di stravolgimenti, no? Cioè non tanto è necessario andare ad immaginare degli scenari apocalittici, parlando proprio di lettura e di scrittura, no? Quanto è stravolta in questo tempo attuale la lettura e la scrittura? Si scrive e si legge costantemente, no? Magari in ambienti digitali, sui vari social, no? Si legge costantemente. Ogni secondo stai a leggere e a scrivere. Diciamo che tocchi un tasto abbastanza dolente, nel senso che poi per assurdo io faccio questa cosa di lavoro, io lavoro con i social, quindi è un mondo che conosco molto bene ed è assurdo. Di recente un blogger ha scritto un articolo in cui fondamentalmente ha scritto un titolo, si definiscono clickbaiting, esca da click, no? Tipo, tu non puoi immaginarti cosa fa questa ragazza con questo estintore, o da domani dovrete pagare per usare Facebook, quelle cose lì che tutta la gente dice, oh Dio, adesso devo leggere, e poi a partire dalla quarta riga dell'articolo diceva, sei un idiota se credi a quello che sto scrivendo, è tutto finto, questo è un esperimento solo per vedere quanta gente non va oltre la terza riga. Il risultato che cosa è stato condiviso da migliaia di persone che si sono fermati veramente al titolo per leggere, quindi non riesco neanche a definirla una lettura, però non voglio neanche demonizzare il mezzo, perché come quasi ogni cosa è chi sta dietro al mezzo che poi fa il bene o il male in un certo senso. Come dicevo prima, ho scoperto i Kalashnikov, ho scoperto un sacco di gruppi, riesco a st- stabilire relazioni e legami con persone lontane grazie ai social network, e soprattutto è una fonte inesauribile di notizie. Quello che manca forse è il pensiero critico che ci aiuta, o che aiuta la maggior parte delle persone a capire quali sono le fonti. E qui torniamo un po' al discorso di prima sulla legittimazione. Fino a un certo punto la carta, il fatto di venire stampato su una testata giornalistica cartacea o su un libro stampato da un editore era una forma di legittimazione. Vuol dire che ciò che faccio, ciò che scrivo, se sono un giornalista è attendibile, se sono uno scrittore è apprezzabile dal punto di vista qualitativo e narrativo. Però è anche vero che questa cosa non funziona più. Io ho avuto a che fare con l'editoria, ma basta entrare in una libreria per vedere chi scrive i libri oggi. È come immaginarsi adesso, a parte rarissime eccezioni struggenti di piccoli editori che sono praticamente, li definirei dei one man band, che fanno tutto da sole, che continuano a credere in un certo senso lo definisco l'artigianato della letteratura. A parte questi rarissimi casi, adesso sarebbe come immaginarsi di andare a un concerto e arriva il talent scout che scopre Patti Smith al terzo concerto a New York negli anni 70, gli fa firmare il contratto discografico. Questi giorni c'è la serie di Mick Jagger su Sky che racconta cos'era la discografia negli anni 70. Noi penso che in un certo senso sul discorso editoria e letteratura siamo ancora fermi lì ad aspettare che arrivi l'esperto, il talent scout che dice tu sei bravissimo a scrivere, toh, firma il contratto e ti farò leggere da chiunque. E c'è molto più pudore rispetto al discorso della musica. Come ho già scritto in altre occasioni, la bellezza del punk, la spontaneità del punk, dei tre accordi, dei famosi tre accordi, tutti hanno iniziato a suonare senza saperlo fare, ma perché avevano voglia di farlo. È chiaro che determinate cose non si possono applicare alla scrittura, perché se scrivi sbagli congiuntivi e scrivi con le K mi viene il nervoso quindi non è, diciamo che almeno le basi dell'italiano per voglia di raccontare qualcosa dovrebbe essere già appunto una base per lanciarsi, perché c'è davvero tanta gente che scrive e non riesce ad applicare, non riesce ad avere la disciplina o il metodo che magari applica nel fare tre accordi con i compagni di classe e quello che viene. E quindi benvenga anche in un certo senso i social che permettono di venire fuori allo scoperto. È un po' qualcosa che si perde, qualcosa un po' di effimero, e al contrario appunto del supporto libro, del supporto cartaceo che dà dignità e fissa nel tempo quelle che sono le parole. No, oddio, ci sono, sì. No, innanzitutto una cosa che mi era venuta in mente è che il progetto che insomma stiamo presentando questa sera è nato dalla carta, nel senso che dalla fanzine Tutti Pazzi, dall'ultimo numero, che leggo in maniera molto appassionata, ho letto appunto la vostra intervista e da lì ho preso qualche spunto ed è nata un po' insomma la volontà di contattarvi, di stuzzicarvi, di far nascere questa cosa qua. E d'altro canto invece pensavo al discorso dell'editoria do it yourself, no? Quanto poi venga poi anche assorbita dal sistema produttivo e commerciale, no? Ci sono delle famose piattaforme che vendono di tutto e sì, soprattutto libri, che danno la possibilità di pubblicare il tuo libro da solo, senza editore. Non so, mi fa pensare, allora, anche quella cosa. Non sono totalmente contraria all'autopubblicazione, nel senso che ci sta benissimo. Comunque questi siti non sono altro che stampatori, tu puoi trovarti benissimo uno stampatore che ti stampa il libro Per esempio, di recente ho avuto sotto mano la fanzine Lungi da me, e praticamente un libro qualitativamente, io parlo proprio, sono un po' feticista su queste cose del supporto, della carta, dell'impaginazione, è di una qualità eccelsa. Quindi veramente si può fare questa cosa. Quello che manca è l'aspetto legato alla distribuzione. È per questo che penso alle distro della scena punk musicale, perché quella è una forma radicata e radicale, capillare, di distribuzione. Il problema dell'autopubblicazione, soprattutto via web, è che il confine tra autoproduzione e autopromozione è veramente labile. Per fare quelle cose lì devi in un certo senso venderti. E per assurdo, quando dicevo che la scrittura e la lettura sono atti molto individuali ed intimi, io non ho problemi personalmente a pubblicare magari sulla mia pagina di Facebook il fatto di suonare coi Kalashnikov in quel posto, di quel progetto fatto con loro, perché sono orgogliosa, perché è qualche cosa di collettivo, di corale, mentre sono molto più schiva e ho delle inibizioni magari a promuovere qualcosa fatto da me, Valeria Disagio, soltanto io, perché mi sembra di parlarmi addosso, di darmi dei meriti che non credo di avere, o comunque di farmi pubblicità da sola. L'autopromozione, che è antipatica, l'autopromozione, dire oh guardate sono bravo, ho fatto questo. Per questo dico, anche il fatto di aver chiamato, di, chiamiamola questa rubrichetta, le nostre lettere, è dato dal fatto che dovremmo imparare come viviamo il punk, la narcopunk, la musica, come qualche cosa di comunitario, di corale. Forse dovremmo imparare a concepire ciò che scriviamo, che è mosso dagli stessi sentimenti, ha una solo una modalità diversa di espressione. Forse dovremmo concepire anche questa cosa come una tribù di scrittori che non vogliono andare da Bruno Vespa a presentare il proprio libro, non gliene frega niente di essere nelle librerie delle maggiori catene del paese, ma forse vogliono solo e soltanto essere letti, e questa cosa non deve essere necessariamente considerata una forma di arroganza o di ambizione. Come la musica esiste nel momento in cui viene ascoltata, per essere ascoltata tu stai dando qualche cosa. Gli economisti la chiamano economia del dono. Io faccio qualcosa e ti sto raccontando una storia e ti sto dando delle emozioni. I libri sono la stessa identica cosa, però per qualche strana ragione, e mi scervello su sta cosa qui, nel momento in cui si parla di scrittura e di libro sembra veramente di svelare da una parte qualcosa di molto intimo che non vogliamo raccontare, e dall'altra parte di autopromuoverci e di fare i fighi. Non capisco come mai nella letteratura non si riesca, ecco, a essere così spontanei come se in altre cose. Però noi, diciamo, tra di noi ci conosciamo, perché ci incontriamo negli spazi occupati, li cerchiamo di renderli vivi, insomma, con le nostre esperienze di vita, di controcultura musicale. Come dire, lasciamo sempre indefinito quell'indefinibile, no? che ci lega. Vogliamo appunto con questo esperimento in questa trasmissione appunto rompere il vaso di Pandora, metterci in relazione con gli altri ed appunto conoscerci. Tra l'altro mi stanno già arrivando, sono arrivate 4-5 mail con diversi racconti, e ne approfitto per dire che li sto leggendo, poi risponderò con calma, perché come è iniziato tutto sono un po' un casino dal punto di vista della gestione dei tempi e delle cose, però è incredibile come un semplice evento su Facebook e una piccola chiamiamola call to action, come si usa nel linguaggio del marketing, una chiamata alle armi, come mi piace di più, abbia già suscitato la voglia di esporsi, la voglia di farsi leggere. Allora, sì, senza, come dici tu, senza demonizzare, c'è una parte che insomma ha letto, cioè si aspettava che c'era un concerto qui negli studi di, visto, di Radio Onda Rossa. Però insomma sarebbe bello, però. Sì, no, si può fare, si può fare, magari ci organizziamo meglio. E, allora, presentiamo per bene insomma il progetto. Quindi nell'arco di qualche puntata andremo a presentare che cosa? Allora, proprio sempre per la questione che non so gestirmi, purtroppo in questo momento non ho, a parte quello che sentiremo oggi, prodotto niente di inedito, ma mi è sembrato comunque qualcosa di giusto che avesse senso, perché ho ripreso determinate cose appunto che erano apparse su carta in situazioni e contesti e supporti diversi e l'ho letto. Tra l'altro avevo un raffreddore, ma magari questo facciamo finta di niente. L'ho letto, registrato tra l'altro col cellulare. Abbondanza di D. Sì, sì, vabbè, c'avevo un raffreddore. Con queste letture mi sono trovata con gli altri e in un paio di sere ci siamo messi lì e abbiamo improvvisato. Sentivamo quello che leggevo, descrivevo un po' le emozioni che avevo provato e quindi poi è venuto fuori quello che andremo a sentire. Allora, a parte quello che ascolteremo oggi, che è appunto quella che definisco la chiamata alle armi, un po' la sigla di questo progetto, gli altri brani sono stati presi, uno dallo split qui Contrasto di Kalashnikov, anche lì altro pezzettino di collaborazione qui Kalashnikov, nel senso che c'è nel disco, nel vinile c'è un racconto, anzi una bozza di sceneggiatura di un film di guerra senza la guerra, e Stefano, come è stato per la canzone dei Cavalieri della Tempesta Elettromagnetica, mi ha dato delle indicazioni generali, un contesto, e poi è venuta fuori la sceneggiatura scritta un po' a quattro mani. E l'altro brano invece è Milano Antartica, presenta su Nihilismi, la mia fanzine, che però per chi non lo avesse mai letto, non lo conoscesse, è stata ispirata da un lavoro fatto dal collettivo per un libro che però queste cose vi farò parlare se Stefano introdurrà quando verrà il momento. Le altre due letture che sono quelle un pochettino, passami il termine, cazzone, nel senso che la cosa bella che mi piace tanto di sia del blog che per un po' ho gestito di Scamper Dai, sia per Nihilismi, che mi sentivo veramente libera di scrivere per divertirmi, non sentivo addosso la pressione di dover scrivere qualcosa di bello, di importante, e no, cioè avevo voglia di divertirmi, mi veniva un'idea scema e quindi poi scrivevo queste cose un po' deliranti, un po' divertenti, un po' non senso. Piccola parentesi, spieghiamo che cos'è Discount or Die per chi non lo conosce. Allora, Discount or Die è un blog che ho aperto svariati anni fa in cui recensisco, anzi dico recensivo perché mesi che non riesco a scrivere, prodotti del discount, cioè ovviamente non essendo una nutrizionista, non essendo esperta di niente, le recensioni col tempo sono diventate più delle recensioni emotive, ironiche, e quindi spesso mi veniva voglia di raccontare qualcosa e ci associavo un prodotto, o come nelle puntate dei Simpson il prodotto diventava il pretesto per raccontare qualcosa che spaziava completamente. Non è tanto la promozione di un prodotto in sé, insomma, è la storia che c'è dietro. La storia che ispirava da parlare delle sfascione di Disney Channel tipo Britney Spears per parlare di assorbenti interni o parlare di quando avevano spaccato la Madonna, la statua della Madonna il 15 ottobre durante gli scontri a Roma, che tutti i giornali intitolavano "No alla Madonna, no", e tutte le foto di questa Madonna spaccata l'ho usato per parlare di un dado, quello per fare il brodo. Quindi insomma è diventata una cosa anche lì, flusso di coscienza, associazioni a caso, e mi sono divertita per tanti anni, tra l'altro è diventato anche un libro. E sì, insomma, quello è un modo proprio di scrivere divertente, senza pudori, senza considerarla come un qualche cosa di cui vergognarsi, essere spontanei, cazzoni. Ecco, forse i blog e i cattivissimi social permettono di avere quell'approccio di immediatezza e di schiettezza e anche di poca cura dell'italiano, perché cioè, la scrittura ti porta via veramente pochissimo tempo, ti fai l'editing da sola, pubblichi, ti fai le grafiche così in fretta, e che ricorda un pochettino l'approccio di un gruppo punk di teenager che si approccia agli strumenti, ecco. E con lo stesso approccio, insomma, avete registrato i vostri racconti con un cellulare? Sì, no, allora io l'ho registrato col cellulare col raffreddore, sì. Io sono la disgraziata, gli altri hanno fatto un lavoro fatto benissimo. Per benino. Ci tengo a precisare questa cosa. No, però anche per comunicare a chi ci ascolta che non servono strumentazioni. Lo fai. Si può fare, quindi mandateci i vostri racconti, magari tenetevi sui 10 minuti o giù di lì, lo diciamo sempre, insomma, il do it yourself, il punk hardcore non è solo musica, ma cosa sarà? Rompete il vaso di Pandora, registrate le vostre cose, saremo ben felici, insomma, di trasmetterle qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E arriviamo alla chiamata alle armi. Dai. Ok. Il primo urlo ha rotto quel silenzio di secoli, di parole rubate dal vino rosso e vomitato all'angolo del marciapiede. La nostra voce, finalmente estranea, aveva il colore del canto degli insetti. Un esercito silenzioso costruttore di un mondo segreto nel nostro torace. Giorno dopo giorno avevano scavato tunnel, gallerie ed un maestoso duomo fatto di ossa e carne. Ci siamo battuti il petto una, due, tre volte e abbiamo ascoltato l'eco di un cuore palpitante, inebetito e bugiardo. In quella notte di maggio, un temporale era scoppiato all'improvviso, facendo saltare l'unica lampadina della nostra cella. Stavamo leggendo le vostre lettere. Fratelli, sorelle, guerrieri della provincia nebbiosa e tormentata dalle zanzare, in cui si impara a lavorare prima ancora di odiare, ribelli dei quartieri popolari occupati, davanti alle vostre tavole imbandite di frutta corrotta e lattine di birra del discount, eroi del gelo che indossate il coraggio con disinvoltura durante un concerto clandestino, in un'epoca di dittatura e rassegnazione, folli autosabotatori di binari di piombo, su cui siete nati saldati, incastrati ed obbligati dal benessere del vostro sangue. Le vostre parole hanno riempito le nostre mani fino a straripare. Goccia dopo goccia, il temporale è esploso anche tra queste mura, bagnando i materassi su cui abbiamo contato i nostri morti cantando. La vecchia lampadina di incandescenza si è spenta in una smorfia di fastidio. E noi abbiamo aperto la bocca e ne è uscito un urlo. Non delegare, partecipa. Vabbè, insomma, questa era la voce di Mastello, che salutiamo. Insomma, questo era è un po' il motto della trasmissione, appunto, non delegare, partecipa. Esattamente. Vabbè, facciamo una cosa, non ce la siamo preparata, ci faremo lo spot, poi lo rimanderò nella trasmissione. Lanciamo appunto l'invito. Va bene, mi piace. No, lo vuoi... Devo farlo adesso, sì, sì, in diretta, sì. Certo. Così. Beh, aspetta che mi preparo psicologicamente. Vai. Ma la chiamata alle armi è tutta quella roba che hai appena mandato, con la musichina carina, devo dire. Vabbè, ok. Allora, che cosa potrebbe essere questa chiamata alle armi? Ciao a tutti, io sono Valeria Disagio, e scrivo da sempre, scrivo da quando praticamente ho la capacità di mettere insieme due pensieri. Le mie parole hanno trovato strada in casa, in differenti ambiti, in differenti situazioni, dai libri stampati da un editore col bullino SIAE a una fanzine sporca di birra distribuita durante un concerto, al web, social, a tutto quello che è digitale e immateriale ma comunque visibile. So di per certo, lo so, che ci sono tante persone che scrivono e raccontano quella che è il mondo, quello che è il mondo, l'universo, do it yourself, quello che è il punk, quello che è viversi il punk, che non è soltanto musica. Questo appello, questa chiamata alle armi per fare lo scoperto, uscire allo scoperto, far leggere ciò che si scrive e imparare e volere, desiderare, considerare anche la scrittura come qualcosa che crea più forza e che crei unione in quella che deve essere una comunità. Quindi tutto ciò che scrivete, poesie, racconti, qualsiasi cosa, mandatele a valeria.disagio@gmail.com, che vi risponderà nel 2027. Però voi mandatele, perché io leggo e qualche cosa farò. Brava, bene, bene, no, bene. No, non bene. È stato carino, io lo rifarei, però vabbè, dai, fa niente. Vabbè, insomma, ci abbiamo modo di rifarlo, insomma. Ok, ok. Va bene. E che dire, allora, direi, se non hai nient'altro da aggiungere, magari ci salutiamo e lanciamo l'invito, insomma, a riascoltarci nelle prossime puntate. Andremo a presentare altri racconti dei Kalashnikov Collective. Non so, vuoi aggiungere qualcosa? No, è stato un piacere. Piacere nostro. Vado a mangiare magari. Ok, va bene. Ok, ti ringrazio Valeria davvero tanto, no, tanto, grazie tanto. Grazie a voi davvero. Un abbraccione. Ciao. A risentirci. Ciao, ciao, ciao. Noi ovviamente ci dimentichiamo delle cose, insomma, che ci eravamo preparati, tutto, insomma, ci perdiamo nella nostra spontaneità. E Valeria aveva preparato un paio di tracce da passare, una di queste dei From the Depths. Il brano scelto da Valeria è Lullaby. Buon ascolto. Oh, dear. E questo è un altro brano scelto da Valeria. Rimaniamo in tematiche post-apocalittiche. Loro sono da Alessandria, i Drunkards. E ce li ascoltiamo qui con Anno Domini 2005. Ricordiamo un po' di appuntamenti di questo fine settimana. Questo venerdì 15 aprile al CSOA Forte Prenestino. Once Were Punks. Chi c'è? Chi c'è stato e chi ci sarà sempre? Quindi in concerto i Church of Violence da Torino, i Gioventù Bruciata con un set speciale in ricordo di Roberto Perciballi, scomparso da pochissimo, quindi un set speciale Bloody Riot. E da Roma i Nofu. Noi ci andiamo ad ascoltare proprio i Nofu. qui del loro ultimo lavoro. Mito, non ce la posso fare. Mito, vabbè, ci riproviamo. Mito, ciclicità, ecco. E ci ascoltiamo Semplice Presenza Opaca e Lavoro. Questi sono i Nofu Hardcore da Roma. L'ansia e l'indolenza ci anestetizzano la mente. Siamo ben felici di presentare questo lavoro qui dalle frequenze di Radio Onda Rossa. È perché Do It Yourself Invasion non è solo punk hardcore. Quando insomma ci arrivano autoproduzioni che vanno ad esplorare anche altri generi musicali, siamo ben felici insomma di contaminare con altre sonorità questo spazio. Questo è totalmente autoprodotto, loro sono gli URZ, con membri di Doomraiser e Sesta Marconi. È uscito da pochissimi giorni questo primo lavoro degli Urz, che va a raccogliere due lavori, che uno è Tragedia, l'altro è Symbolum. Questo sabato saranno in concerto e presentazione di questo lavoro al Dal Verme. E questo è 1 più 1 uguale 3. E 21 minuti primi in questo momento. Apostasia è pronto ai comandi, quindi rimanete all'ascolto. L'appuntamento è per giovedì prossimo con Do It Yourself Invasion, quindi dalle 21 alle 22. Giovedì prossimo ospiti i fratellini di Sporco Dentro, una trasmissione gemellina della web radio Radio Croda. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro si trovano in condizioni di limitata libertà. Rimanete all'ascolto, ricordate, non delegare, partecipa.